Oxo Spaziale. L'arte come non l'avete mai. Un programma di Fedra C. Boscaro e Stefano W. Pasquini. Ok. I don't want you in my life, just give me back mine. I think it's about time you. There is a room in your life for more pairs of shoes, it's all about you. So you're only in love with yourself, obsessed with how well you're coming across. Get lost. Now I can see I was just starting to match with the person. I'm not your poodle. No, please, why are you acting so cocky? You can meet like your chicks bounce like Dolly, cause I know tomorrow night at pillow talk time you call my phone sobbing and sounding all sorry. You were so silly acting all gobby, cause I just ain't another girl like E. Plus you ain't worth another girl like me. I can do way better than you, risk, don't worry. Now I'm pulling the chains, always flush out my veins, out the drain. Flush, you're like you, no more sink. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, each bubble, meet my friends. Flush, sorry love, what was that? What I heard was nah, yeah. I've been too nice, too nice, too nice. You can't afford to be stored. I think you've been smoking way too much more. Cause I've been too nice, too nice, too nice. And you're talking way too much. Before you get here, is I suggest you just. Anche oggi Fedra non c'è, allora facciamo uno speciale su Pino Borest, un artista fantastico! You out my system. Flush, now I'm pulling the chains. Always flush, out my veins, out the drain. Flush, you're like a no more sink. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, each bubble, meet my friends. Flush, sorry love, what was that? All I heard was I've been too nice, too nice, too nice. You can't afford to be scorched. I think the biz smoke, you're way too much bored. Cause I've been too nice, too nice, too nice. And you're talking way too much. So before you get hit with, I suggest you just flush. Fedra, Fedra, Fedra, no, anche oggi Fedra non c'è, allora facciamo uno speciale su Pino Borest, un artista fantastico! Arte contemporanea. Ciao Pino. Ciao Cristiana. Ascoltami un po', io che ho trovato cose tue dal 94 in poi, mi racconti un po' Pino Boresta? Perché si dice che Pino Boresta è il papà della street art a Roma? E quando hai cominciato? Guarda, che sia il papà della street art è chiaro che non è vero questa cosa, perché la street art esiste già dagli anni 70. Forse potrei così vantarmi di essere il papà di un certo tipo di street art, fatto in una certa maniera e magari averle cominciato a fare certe cose qui a Roma prima di altri. Sì, il lavoro delle cose sì, dal 94 in poi si trovano le cose, cioè questa idea della faccia che fa la smorfia, diciamo, nasce già prima verso la fine degli anni 80, quindi con delle fotografie, cose che facevamo tra amici, a me stesso, così ci prendevamo in giro. Tant'è vero che dicevano facci la faccia da triglia, facci la faccia da triglia, facevo questa faccia da triglia. E facevo delle foto, che poi facevo anche dei piccoli adesivi che distribuivo così tra amici, ma non le mettevo in giro per strada. Poi negli primi anni da 90 ho cominciato a dirmi un certo tipo di arte, diciamo, più sperimentale, perché diciamo io faccio l'artista ormai dall'86, 85 diciamo, e addirittura ho cominciato a fare, facevo lo stilista, cioè andavo in una scuola di stilista di moda, dico tutto, facevi figurine. Lì ho conosciuto il mio primo maestro, Franco Reale, che lui aveva lavorato per Valentino, faceva le camicette, io con lui ho cominciato a disegnare. Però bisognava disegnare bene per fare questa cosa. Bisognava disegnare bene, io ho imparato delle cose. E quindi diciamo che ho avuto un escursus, pur non essendo diciamo una trestista tradizionale, ho avuto un escursus diciamo come artista abbastanza tradizionale, nel senso che sono passato dal disegno, poi alla pittura, poi all'arte diciamo un po' più concettuale, all'installazione, però per arrivare ad approdare alla strada. Scuole e accademia? No, oppure no, tutto autodidatta. Io sono geometra in sostanza. Hai fatto disegno tecnico. Sì, disegno tecnico ero bravo. Disegno per la moda? Sì, disegno per la moda, ho fatto 2 anni, poi in realtà ho tentato anche di lavorare nella moda quando sono stato a Londra per 3 anni che stavo lì, diciamo, lavoravo e chiaramente a Londra dovevo lavorare solamente negli ristoranti, io lavoravo nei club, più che altro l'Est Ambassador Club, oppure magari al World of Hotel o anche all'Arts Club ho lavorato questi anni qui e nel stesso tempo facevo già l'artista, però ecco lì facevo disegni. Ma frequentavi il mondo artistico londinese? Sì, cioè, tentavo di frequentarlo, ma anche lì ci sono le loro amicizie, le cose, poi venendo da fuori è difficile. Devo dire che per un periodo ho frequentato degli artisti della St. Martin School, da cui poi ho saputo susseguentemente che è uno degli artisti più importanti nel momento della Gran Bretagna, Damian East. Ha fatto la St. Martin School, o anche altri, anche credo Tracy Emin e altri. E io ne ho per un periodo ho frequentato un gruppo di artisti cosa che lavoravano. Cosa pensi di Damian East? Damian East devo dire che le sue opere, lui è intelligente, lui sì, anche secondo me. Più che artista è sicuramente un artista, è intelligente e fa le cose. Fa delle cose giuste, fa delle cose. Fammi vedere la cattedrale più bella del mondo, è più bello quel tiglio nel giardino giù in fondo. Fammi sentire la canzone più dolce del mondo, canta meglio quel merlo, basta solo ascoltarlo. Ho voglia di fare e non mi importa da che parte comincio, corri a prendere il gatto, provo a farvi un ritratto. E lascia la finestra aperta, se hai freddo prendi una coperta, voglio sentire fuori il vento che canta. Grazie. Questi erano Enrico Farnedi e Riccardo Lolli, live dal Castagneto il 4 agosto 2017, qualche tempo fa. E proseguiamo invece con la registrazione dell'intervista di Cristiana Cobianco di REM, Ricerca, Esperienza, Memoria, una rivista del Polesine, che ci intervista appunto il nostro caro Pino Boresta. Quindi diciamo, dopo questa cosa dell'inglese sono tornato e ho cominciato a dipingere le cose e praticamente sono, poi a un certo punto sono approdato a un gruppo di artisti che facevano lavori più sperimentali, diciamo più cose più all'avanguardia, ho cominciato a fare anche certe installazioni, a chiedere l'intervento del pubblico all'interno della mia opera, cominciava a interessare, capito, la fruizione, il contatto con il pubblico. Ma in forma di performance o in forma... Per dire, che ne so, ho fatto un'opera nel quale praticamente avevo fatto delle etichette che adesivandole sopra, una volta c'erano i biglietti del pullman che si andavano timbrati, no? Sì. Ecco, che se uno timbrava il biglietto in quel giorno, che ne so, timbrando questo biglietto, che ne so, il 16 luglio del 1995, questo biglietto diventa un'opera d'arte, che è molto manzoniana, diciamo, come cosa. Però l'influenza su quelle, so che... E caspita, è l'unicum però, cioè... E c'è chi l'ha fatto, perché io poi queste cose le davo durante le mostre, durante le inaugurazioni... agli amici, e c'è chi l'ha fatta e se l'è mantenuta. Io pure, tra l'altro, non ce l'ho neanche io, perché a volte, non vivendo anche fuori Roma, non venivo a Roma e non li vedevo, allora me li facevo timbrare, quindi non c'ho neanche la collezione completa di questa cosa, perché poi l'ho fatta per 2-3-4 anni. E questa qua mi piaceva che il pubblico interagisse, non fosse solamente più là. Ne so, altre volte chiedevo alla gente di darmi le loro unghie, io in cambio gli davo le mie unghie. Ah sì, l'ho vista questa. Queste cose qua, e poi alcune queste qua le conservavo. E, insomma, facevo queste operazioni dove mi interessava proprio l'interazione con il pubblico. E l'archiviazione anche però di... Cioè, tu avrai un archivio di unghie adesso? Sì, sì, sì, certo, ho le unghie di almeno una cinquantina di persone, oltre le mie che da maniaco conservo ormai da... Davvero? Sì, sì, ma non solo quello, conservo... Perché le unghie? Non lo so, perché dopo questo ho pensato a questo progetto, credo che avevo già iniziato da qualche anno, quindi diciamo il progetto nasce dall'idea che avevo cominciato a fare, perché a un certo punto mi scatta di fare delle cose e poi le porto avanti per tutta la vita, non lo so perché. No, questo è comprensibilissimo, però a me succede a volte di fare delle cose che non capisco adesso, ma che dopo capisco. Esatto. Le unghie, hai capito perché vuoi le unghie? Non lo so, cominciai a conservare perché adesso non lo so, per esempio, ecco, anche, per esempio conservo anche i capelli. C'è il DNA lì. E c'è il DNA. Ah, ecco, forse adesso mi sto ricordando. Vedi, piano piano mi fa. Perché facevo dei quadri all'interno dei quali inserivo croste di colore, materiali vari, quindi ci siamo alla classica tecnica mista. E cominciavo. E credo che una volta, forse stavo proprio a Londra, credo, o forse stavo già a casa di mia mamma, ancora a casa di mia madre, e cominciavo a mettere anche materiali vari su. E mi ero tagliato le unghie, cioè, vedete che avevo queste unghie e le misi in un quadro, che però non si riconosco perché sono mischiate con il colore, cosa. E poi quindi da questa cosa cominciai ogni volta che mi tagliavo le unghie a conservare. Quindi che cosa faccio? Mi segno la data in cui le taglio e conservo le unghie. Poi una volta le conservavo tutte insieme, adesso sono due scatolette distinte, quella dei piedi e quella delle mani. Poi a un certo punto cosa è successo? Ho cominciato anche, siccome ero quando ancora avevo i capelli, mi tagliavo, mi sono detto, mamma mia, ti ho spento tutti i soldi ogni volta. Tu hai il ready made umano. Io credo che tutta l'operazione mia che ho fatto, sto cercando di fare, è un lungo, grosso tentativo di esistere. Cercare di costruire la mia piramide, dove nell'ideologia folle di ogni essere umano rimanere eterno almeno per i posti. Perché non me lo chiedo, non lo so perché uno voglia fare questo qua. Però ecco, secondo pensando me lo vogliamo, di fare qualcosa, lo vogliamo tutti. No, c'è gente che non lo vuole fare, io conosco dei amici che non vogliono scrivere, non vogliono essere ricordati, non vanno su Facebook, vogliono. Okay, però alcuni hanno questa cosa, io credo che gli artisti questa la sentono l'essere. L'essere, hanno questo essere che deve, cioè sono passato se ho lasciato. L'ho fatto, poi non capiscono subito il significato di quello che fanno, no? Uh-huh. Anche per, io credo che sia proprio lì la forza, cioè gli artisti che si bloccano, che non riescono ad andare oltre certi loro limiti e non riescono ad essere interessanti, è perché vogliono capire nel momento in cui stanno, nel momento in cui fanno qualche cosa, quello che fanno. E no, e no, è lì il grande errore, perché se Erin Bergson ci ha insegnato qualche cosa, è proprio questo, dare l'attenzione all'intuito. L'intuito è fondamentale, l'intuizione è fondamentale, perché ti pulisce quel canale, ti dà la possibilità di fare le cose che non bisogna stare attenti tra intuizione e istinto. L'istinto è un discorso che si avvicina, quindi parlo dell'intuizione. L'intuizione è tutto. Io quando ho letto Bergson, dopo che ho letto, adesso non mi ricordo il titolo del suo libro fondamentale, ho capito l'importanza di questo elemento nell'essere umano e mi sono liberato totalmente. Per dirti, quando disegnavo, io disegnavo, ovviamente uno comincia a disegnare, tende a fare i disegni il più belli possibili, il più definiti possibili, più reali. Quando io poi, prima di fare questo, magari facevi degli schizzi e vedevi, cazzo, ma guarda questo schizzo, questo è molto più bello questo schizzo, cioè il famoso il discorso di Shell, no? Shell, Klimt, infatti io ho un entroterra quando disegnavo e quando dipingevo, molto... espressionista, cioè, no, che deriva da questa cosa qua. Allora dice, perché mi devo mettere lì a fare il disegnino? Guarda, è bella sta linea forza, questa qua, col gesto veloce. Allora, a casa di questi? Sì, c'ho tantissima di questa roba. Poi certo. Mi fai qualche foto degli schizzi? Ma ti porto di foto. No, basta, perché a me piacciono tanto gli schizzi, io faccio collezione di schizzi. Bravo! No, mi interessa no, decisamente no, sono degno no, sono pregno no, il concetto è no, il livello è no, guardo la TV no, guardo la radio no, ascolto un libro no, scarico un film, sì ma cam, sono sveglio no, sono meglio no, sono io boh, so ben io no, sovrastrutture no, contromisure no, disavventure no, magari pure no, navigatore no, tanto sto a casa sì, a ti calcare no, lavastoviglie no, sì, il digitale no, verso animale no, la DSL no, la Ferrarelle no, ho scritto un libro sì, ho scritto a mano sì, l'ho rovinato sì, e non si legge più. Un giovane uomo odierno ha il vago sentore di non essere eterno, non si relaziona, non si riproduce, la spinta del proprio metano lo conduce. Un giovane uomo odierno ha la presunzione di essere eterno, ha già sempre un ragazzo, va bene lui che non capisce, me ne frega, no, me ne fotte, no, mi interessa, no, decisamente no, sono degno, no, sono pregno, no, il concetto è no, il livello è no, guardo la TV, ascolto un libro, scarico un film, sì ma sono sveglio, sono meglio, sono io, so ben io, un giovane uomo odierno, al vago sentore di non essere eterno. Non si relaziona, non si riproduce, la spinta del proprio metano lo conduce. Un giovane uomo odierno ha la presunzione di essere eterno, ha già 90 anni ma è sempre un ragazzo. Va bene lui che non capisce, me ne frega, me ne fottere, mi interessa, no, precisamente no. Sono degno, no, sono pregno, no, il concetto è no, il livello è no. Guardo la TV, no, guardo la radio, no, ascolto un libro, no, scarico un film, sì, ma calma, sono sveglio, no, sono meglio, no, sono io, boh, so ben io, no. Io vi ringrazio. La società vive sempre con un'arte che appartiene al passato e non al presente, e questo per gli artisti è un grande vantaggio. È ciò che li può emancipare dai dettami e dalle aspettative del gusto corrente, ciò che li rende liberi e autonomi. E queste sono parole di Baselitz, okay? Che dipinge quadri brutti quanto inattaccabili. Non esiste alcun problema di utilità, dice Elia, questo. È una sua sì. lettera. L'arte è perfettamente inutile. Sì. E questa è la nostra grande fortuna. Nessuno ci può dire cosa dobbiamo fare. Certo, questo enorme campo d'azione può disorientare. La gamma di possibilità è talmente vasta da rendere qualsiasi scelta priva di senso. Per superare questa equivalenza desertificante è ancora una volta a noi stessi che dobbiamo rivolgerci. Dipingi come mangi. Dimentica tutto quello che hai imparato, ora non ti serve più. Infatti è quello che dicevo io, in sostanza alla fine che cosa dice? Affidati all'intuizione. Alla sì. fine ti dice questo, non usa la parola intuizione ma ti dice non questo. Mangi. Cioè è vero anche quando dice l'arte è perfettamente, è vero, è perfettamente inutile perché l'arte cioè, non è che non puoi vivere senza arte, non è indispensabile come mangiare, come avere, però è fondamentale ai fini del progresso proprio di una società forse che si interroga su se stessa, come fanno tutte anche le altre scienze, tutte l'arte forse dà lo spunto alla filosofia, esatto. Secondo te? Sì, ma tanto più oggi che diciamo c'è un mix di l'arte sfora spesso, sempre più spesso nella filosofia, nella letteratura, in tutte le altre scienze, diciamo, in tutte le altre... Secondo te è l'artista oggi che fa la vera politica? Sì, forse è l'artista che mette sotto la faccia dei politici le vere necessità politiche della società. Perché purtroppo i politici sono troppo presi dai loro interessi, anche dalle loro pressioni, perché per arrivare lì hanno subito migliaia e migliaia di aiuti, di pressioni, quindi devono rendere conto. L'artista in genere, se è un artista libero, che non ha dietro, che ha raggiunto diciamo, il suo status grazie diciamo, a altre influenze, che questo capita molte volte, ti dice realmente guarda la società ha questa urgenza, guarda la società ha questa necessità, guarda qui tu stai sbagliando. Secondo me dove sta andando la politica, dove sta andando l'arte, in questo momento secondo me è l'arte che fa la politica di prima necessità. Sì, sì, o sì. Che sveglia i politici, sì, non sì, so sì. come segnala. Certo, segnala. segnala, mette in luce forse, dopo sotto i riflettori. Sì, dovrebbero fare dei corsi d'arte ai politici probabilmente, perché c'è molta ignoranza, c'è purtroppo molta ignoranza. Coxo spaziale. Creatività generica. Parliamo del tuo progetto di crowdfunding. Sì. Quali sono state le scoperte artistiche che ti ha portato SOS Sfratto? Le scoperte artistiche? Sì, la riuscita del progetto, sì, rispetto alla premessa. Sì. Diciamo, cosa ti ha stupito? Ah, ecco, cosa mi ha stupito? Cosa ti ha stupito? Cosa ti ha deluso? Sì. O deluso, oppure, boh, non lo so, cioè, cosa è andato male, diciamo così. E la ripetibilità di un progetto del genere. Ma guarda, come tutti quando intraprendi una cosa del genere... Io devo dire che nonostante non sia stato raggiunto... Ma magari lo spieghiamo, perché sì, se... Sì, ok, certo. E allora SOS Sfratto è un crowdfunding, sì, in cui Pino ha messo a disposizione, in vendita, delle sue opere, sì, e per poter risolvere un problema con... Collater, che le case... Siamo un'intimazione di sfratto per alcuni affitti non pagati, che esatto, alla fine sono maturato... dovevamo dare 10.000 euro d'amblè, così, dall'oggi al domani. Quindi c'era una denuncia sociale, c'era una richiesta anche di aiuto, ma c'era anche la messa a disposizione di opere per tutti. Sì, quindi, a vari prezzi. Sì. Infatti avevo creato, chi conosceva il mio lavoro ha messo una busta con all'interno di una serie di tutti i miei artisti, di tutti i miei adesivi storici. Poi c'era un lavoro, diciamo che questa, la busta la mettava a 30 euro, poi c'era un lavoro di alcune tavole fatte su cartoncino che sono sempre questa mia smorfia manipolata, quindi tagliata in alcuni mali, quindi praticamente ogni tavola diventava un'opera unica. E poi c'erano a 500 euro c'era questa smorfia texture, sono opere addirittura del 1994 fatte con proprio su degli A4 di vari fogli di giornali di tutti i generi, potevano essere il menu come un mio vecchio ex curriculum sulle righe, o magari poteva essere un pezzo di giornale, oppure poteva essere una bolletta, una bolletta, e quindi su questi fogli ho fatto questo con l'olio, ho riprodotto questa mia faccia poi graffiandola così. E però sono lavori che poi sono rimasti lì e non pensavo magari, no, qualcheduno l'aveva venduto così. E poi per questa occasione, essendo dei lavori storici, ho messo questo qua alla cifra più alta che c'avevo. E poi c'era l'opera finale, che era questa opera, diciamo, fatta su proprio di un 1x20 per 1x20, fatta d'olio su un quadro su tela, che era I don't give up, che va piano piano a scomparire, un po' come in Kubrick 1900, ecco, come disse nello spazio, quando il computer piano piano, sì, incomincia a morire, no? E io ho fatto questa scritta come dico, I don't give up, però si legge sempre più flebile fino a quando, come dice, non mi arrenderò, però in realtà è come se mi sto rendendo. Chi ha dato delle letture di quest'opera è come, però potrebbe essere anche letta al contrario, magari cominciando a guardare sotto, I don't give up, che questo qua allora ci riporta sempre un altro film, che è quello di Rollerball, è quel film dove ci stava quel gioco dove tu si giocava con una palla che girava intorno al circolo e dove erano delle squadre che praticamente si massacravano tra di loro sui pattini, però alla fine questo qui che andava contro il sistema, questo diciamo il protagonista, alla fine riesce a vincere il sistema che lo volevano far perdere tutti i costi, e il pubblico prima ne comincia a fare, adesso non mi ricordo come si chiama, ciao, quindi io ho sempre dei piccoli riferimenti dentro me, poi che scopro che influenzano il mio lavoro, però no, non me ne accorgo mai, o non li metto mai prima, non vengono mai prima, perché sono stato un amante anche pur non avendo fatto l'università, ha letto molto Freud, Fromm, Jung, quindi poi piace analizzare, ma non è che è una forzatura che mi ci metto lì di proprio, questa mia opera, sono quelle illuminazioni che ti vengono mentre proprio scrivendo, che avendo più... Io, a me insegnano agli artisti non chiedere mai cosa vogliono dire, cioè di spiegarti un'opera, non glielo chiedere mai, ok? Perché, sì, perché è così, come dici tu. Beh, perché c'è chi piace magari analizzarsi, chi magari non vuole capire, preferisce solamente produrre. Ognuno siamo fatti diversi, insomma, ci sono varie forme di artisti. Cioè, ci sono artisti come Dorfless, ci sono artisti che magari dove Gillo, Gillo. Quindi insomma è tutto tondo, quindi figura. Sì. O magari ci sono artisti che invece vogliono solamente produrre, non gli interessa la volontà. Io penso, sai cosa, Gillo Dorfless, con tutta questa amicizia che ha avuto con artisti, è impossibile che non abbia voglia di spiegarti le sue opere, perché cioè, è una spugna, capito, di una persona che se vuole capire gli altri, prima o poi cercherà di capire anche quello che fa. E quindi diciamo, ho creato questi tre target, e poi praticamente ho messo su questo tavolo, su questo crowdfund, ho fatto, e fortunatamente sono cominciate ad arrivare le prime donazioni. Devo dire che io non l'ho fatta senza nessun grande aspettative sicure, speravo che andasse bene, però ero sempre un po', come diceva, preoccupato, perché bisognava raggiungere il target, sì, no? Sì. Poi in realtà ho scoperto che questa è un grosso colpo di fortuna, che ci sono delle piattaforme, cioè perché io ho fatto la richiesta di mettere questo crowdfunding in un'altra piattaforma di crowdfunding, però non me l'hanno accettata. Poi mi hanno consigliato questo, ho messo su questa. Questa qui poi ho scoperto pochi giorni prima della volta, che praticamente è una piattaforma take it all, praticamente nel senso che tu avresti preso quello che ti veniva donato indipendentemente se raggiungevi il target. Sì, ecco, anche noi abbiamo fatto così. Fu una fortuna, e quello io non lo sapevo. Io anche su quello ho fatto il countdown, ho fatto meno 9, meno 8, invece poi dopo ho scoperto, perché se proprio mi ha messo la pulce proprio Pasquale, proprio Stefano, mi sono andato a leggere tutte quante le istruzioni e sono andato a vedere che in realtà erano state già accreditate alcune. Sì. E quindi insomma è stata a volte la vita è strana, guarda. La vita è veramente, cioè da una parte ti rifiutano e tu vai a fare un'altra cosa, l'altra parte era target, no? Se non raggiungevi quello. Sì, sì, sì, e io ho messo pure un target basso per quest'opera, sì, che valeva una volta e mezza di più, in realtà, proprio perché quei 6.000 euro mi servivano. Esatto. Però questa maniera cosa è successo? Che ne abbiamo raggiunti 4.000 e quei 4.000... L'hai potuti avere. Io però ho mandato tutti quanti una cosa che se qualcuno l'avesse fatto solamente per raggiungere il target, io avrei refunded, c'era la possibilità di ridarli, perché c'è proprio un tasso, però nessuno me l'ha chiesto, anzi no guarda, ci dispiace, non ti preoccupati del fatto, quindi questa è una cosa che mi ha fatto, che era gente veramente sincera, che veramente l'aveva fatto quasi indipendentemente, cioè tra virgolette, perché dell'opera, però secondo me è stato il stimolo il fatto che ci fossero delle opere, che ci fossero delle cose. Ma sicuramente sì. Cioè, nel senso, io queste cose qua le apprezzo perché da piccola collezionista che mi piacerebbe essere, così ci riesco. E credo che come me ce ne siano tanti che vorrebbero acquistare arte di un certo tipo, non alle televendite. C'è chi vuole comprare arte da casa. Sì. O è completamente disorientato, nel senso che o va nelle gallerie e ha paura di chiedere il prezzo, come succede a me. Io vado a vedere le gallerie ma ho paura di chiedere il prezzo. Oppure può trovare persone che ne sanno. I crowdfunding secondo me sono una rivoluzione nel mondo degli artisti. Questo che dici è talmente vero, perché però ne sono accorto, specialmente per i ragazzi, capita che i miei adesivi, trovandosi in giro da tanti anni, la gente proprio li strappa, ci cerca di prenderli, a volte trovo spesso degli adesivi che un po' strappati ma non del tutto, perché tentano di prenderlo, però vedono che non viene via, allora lo lasciano lì. Allora, molti di questi giovani street artisti che c'è una stima, insomma, mi riconoscono, un certo lavoro, come dicono loro, rispetto, Pino Buresta, rispetto, è bello questo. Allora, comunque sia, quando hanno saputo questa cosa, molti di questi qua alcuni se lo potevano permettere tranquillamente di donare €30, altri magari di meno, comunque hanno fatto questa cosa proprio per avere gli adesivi. Alcuni di questi veramente erano, poi c'era gli email, ci siamo scritti, diciamo circa, erano preoccupati del fatto, ma che succede se tu non raggiungi il target, non ci vediamo, poi vi mando ugualmente, troviamo il modo, in qualche maniera ci incontriamo, potete mettere i soldi da un'altra parte, ve li mando giusto per la spedizione. Quindi erano molto preoccupati del fatto che non si raggiungesse il target, più queste persone che hanno fatto gli adesivi, che magari quelli che hanno dato €500, Ma perché anche lì ci sono state molte belle persone, tra queste persone hanno dato, comunque tutta gente, comunque ho visto che non è gente che tutta gente, perché poi io mi sono andata preparata, gente insomma che veramente, oltre che essere belle persone, brave persone, era gente che in qualche modo mi stimava, capiva il valore della cosa. Sì, ma cioè non era beneficenza, era capire il valore di quello che acquistavi. Io sono convinta di questo. Perché io poi ho comunicato con questo, cioè poi non so, uno di quegli snob. Allora quindi tu ho mandato degli email, quindi ci ho avuto un feedback, un feedback, ho avuto modo di scoprire tutte, un pochino queste persone. No, così ci sono. Riconosciuto il gioco del bersaglio della settimana. Can, canne, cane, molosso, colosso, Rodi, Rudi, Bruschi, Braschi, Nicoletta, Ancelotti, Carlo. Vernice, tinta, tina, turner, tuner, toner, inchiostro, simpatico, antipatico, anticipato, pagamento. Protesta, protetta, provetta, inesperta, parentesi, graffe, griffe, firme, fiume, Tamigi, Londra, Arnold Schwarzenegger. Attore, teatro, la fenice, encefali, cervelli, vercelli, risaie, risate, satire, Orazio, Clarabella. Emigrate, Hermitage, museo, maus, tastiera, pastiera, separati, sparati, arpista, arista. Maiale, Amelia, Omelia, Messa, Messi, Barcellona, Carbonella, Brace, Brave. Dal punto di vista invece sociale, e questo assostrato ha fatto muovere qualcosa all'ATER, al comune, è successo qualcosa dal punto di vista amministrativo? No, niente. Semplicemente non vedono l'ora di prendersi questi soldi, aiutavano le cose e basta, niente. Noi abbiamo anche altre problematiche lì che sono dovute proprio a questa palazzina che ha delle grosse problemi strutturali, non si riesce a far venire qualcuno per far esaminare quello, perché sotto si formano tramite delle fogne che sono state fatte male, si formano degli acquitrini che minano proprio la struttura portante del cemento armato che si sta deteriorando. Ora non, io cioè non è questa cosa non ha fatto accendere la luce sulla palazzina, questo volevo dire. No, perché a volte succede anche questo con l'arte, no? No. Che magari no, questo no. Questo purtroppo no. Lì Mallatere è commissariata, quindi c'è grossi problemi strutturali, ci sono grossi problemi di gestione, ci sono stati dirigenti che hanno fatto. Io adesso non mi vado ad entrare in meglio a parlare di questo, perché siamo in un contesto artistico. Però era questa la funzione artistica di qualche volta si accende la luce su un problema e magari il problema. Cioè che venivano loro e mi dicevano guarda, visto che stai così, non ci dare più. Ma qualche giornalista. Io ho visto su Exib Arte, giornali cose, però magari anche un quotidiano che fosse Rizzo ho fatto una cosa sulla radio, la pagina aperta. Rizzo è il giornalista. Sì, il giornalista. Adesso, l'ho conosciuto Rizzo, è venuto ad Adria a presentare il suo libro. È una persona preparata, quando fa questa pagina su Rai 3, lui l'ho telefonato subito, infatti stavo andando alla fiera da qualche parte, mi sono fermato e mi ha fatto e gli ho detto questa tematica, accettato. È andata anche sulla radio, cioè fanno il loro archivio e si può ascoltare. Questo è l'unico feedback che ho avuto. Ma hanno risposto qualcheduno, perché poi ho scritto lettere a tutto il mondo questa cosa per cercare di sola prima ancora di pensare di fare qualcosa. L'unico che mi ha risposto è stata la trasmissione, quella di Giletti. Arena, e quindi l'hanno chiusa, quella di Paragone, pure l'hanno chiusa, se qualcuno tenta di fare qualche cosa, te chiudono, cioè se abbiamo pochi artisti o pochi giornalisti coraggiosi, chiaramente mettono in campo le cose, vogliono fare, si chiudono, si buttano fuori, allora a questo punto cioè, che devono fare anche loro, cioè, beh, io ci provo a darvi l'informazione, voi non fate niente, questi qua che... Italia, è l'Italia, democrazia. Questa è l'Italia, la democrazia. Che vogliamo? Vabbè, ma comunque la politica. Vabbè, un discorso lungo. E l'ultima cosa, siamo in anno di Biennale. Sì. Ti ho visto al vaporetto della Biennale. Sì. lì ci sono sempre, tutti gli anni, non manco mai. L'adesivo sul vaporetto lo metti sempre? Sulla fermata, sul post, sul come si chiama? Sul tabone pubblicità? Sì, se lo metti sempre lì? Sì, beh sì, quasi ogni anno. Grande. Adesso lo noto, capito, per prima. Beh, non solo lì, lo metto anche altre parti. A volte no, che non. C'ho anche ancora. No, arrivo lo. Io lo metto ad Adria, sappi che certo. Ad Adria non ci sei ancora. Ad Adria. Adesso ti mando sarà. Pure gli altri. Sì. Quando andiamo giù in macchina e faccio queste cose, ti do anche gli altri. Ti do quello bello grosso a tre. Adesso sai dove ti metto? Ti do quello a tre proprio. Ascolta, che rischio c'è a mettere, perché io siccome da noi c'è l'antibivacco davanti al teatro comunale, adesso non ci si può sedere sui gradini del teatro comunale ad Adria, a me piacerebbe metterti proprio attaccato al divieto, cioè la smorfia, mi uccidono questi io a volte attacco può capitare di attaccarlo dietro segnali stradali che magari però sono comunque visibili, perché ormai dove praticamente faccio prima di attaccarla faccio la foto e non la attacco e dopo la attacco da un'altra parte, faccio un collage dai, dividiamo gli spazi con questi qua che fanno pulisco cantine, i taxi, queste cose che mettono i taxi, no? Allora questi li mettono dietro i cartelli, allora dietro i cartelli ti danno meno fastidio, Roma. Bisogna vedere però dietro. Insomma ho visto il tuo progetto, quello Io Vivrò, e ho visto il video ho visto non solo il video della conferenza stampa, il video tuo e questa cosa delle canzoni, perché I Don't Give Up ma mi mette Peter Gabriel, qua c'abbiamo Battisti e volevo capire come è andata a finire, cioè ho letto più volte che è stata una cosa pensata e progettata quella di fare la performance, penso in conferenza stampa, E dopo sì, anche la raccolta firme fa tutto parte dello stesso progetto? Sì, no, allora la raccolta firme era due anni prima. Ah, ok, scusa, no. La raccolta firme, la petizione a mio favore che ho fatto era due anni prima. Ah, ok. Però già in quegli anni là, in quegli anni là, ho cominciato a fare delle azioni che siamo, diciamo, un po' così, dei blitz, dei ride all'interno di alcune. E io praticamente in quel contesto sapevo che c'era questa conferenza. Ho pensato di fare questa cosa, di mettere in luce sempre questo fatto. Ma la conferenza, quindi due anni dopo, è recente allora la conferenza? Per farmi pensare, allora, era Gioni però due anni fa? Sì, Io Vivrò era Gioni, mentre Firma a Boresta era col tedesco. Sì. Ah, ok. No, perché questa qua è stata fatta due volte, questa cosa è stata fatta anche alla conferenza della Biennale quando c'era Birnbaum. Durante Birnbaum lì feci un altro blitz e mi portarono via, io alla fine insomma così. E poi questa invece di Gioni è stata fatta quattro anni fa, conferenza, quella di Gioni, che è stata fatta alla Biblioteca Nazionale qui a Roma, durante la conferenza stampa. Era quattro anni fa, Gioni. Sì, perché quest'anno ti trovi la moglie. Quest'anno Padiglione Italia c'è la moglie. No, lì è stata la fortuna, è stata che c'è stato un mio amico che ha fatto il video, perché io non potendo fare ogni video da solo, ha fatto il video, poi l'ha messo, insomma, con questa maniera. Che poi questo mio amico che mi ha fatto il video è il direttore di Art Tribune, Massimiliano Tonelli, lo ringrazio pubblicamente, insomma. Sì, E mise questo video e quindi detto ancora una... Ho letto una tua intervista di un certo Luca Rossi. No, Luca Rossi, questo anonimo. Questo anonimo, che ti ha detto, ma... Perché dice così? Cioè, nel senso, tu hai spiegato bene che quella cosa lì era un art blitz progettato e lui dice mi sono vergognato per te. E io mi domando, ma come si permette uno di dire una cosa del genere? No, ma c'ha ragione, perché anch'io mi sono vergognato, io mi vergogno ogni volta che lo faccio. Però c'è qualcosa dentro di me che mi urla che lo devo fare, perché se non lo faccio io non lo fa nessun altro. Esatto. E allora se io riesco a farlo, io lo faccio per me, ma lo faccio anche per gli altri. Perché sì, ma questa cosa, e perché la vergogna allora? Cioè La vergogna perché fai qualche cosa di che... Di mettersi a nudo forse? Esatto, sì. Di mettersi a nudo. Per esempio, me ne ricordo una dove era presente anche Stefano Pasquini, quando abbiamo fatto questa cosa durante il festival che è stato fatto a Faenza, no? E mentre c'era la presentazione qualcuno, a un certo punto di Cesare Pietro Giusti, e io mi sono alzato, cosa bisogna fare per andare alla Biennale? C'era Cesare Pietro Giusti che era intervistato da Angela Vettese. E questo però lì, cosa è successo? L'ho fatto, siccome durava... c'erano varie conferenze in vari posti, ho girato 6-7 posti, insomma, ormai mi davano la caccia, volevano fermarmi gli organizzatori, però alla fine io credo di questa cosa qui si ricorderà anche questa cosa, un momento, e so io poi quando ho studiato questa cosa e poi sono uscito, poi qualcuno dentro ha detto, ha voluto continuare a che si parlasse, come si fa a entrare alla Biennale? Allora quindi ci sono delle domande che la gente ha paura a fare, fatte in un contesto, fatto in questa maniera così come azione, come un urlo, e allora poi se ne parla, si va a scoprire cosa ci stanno dietro i sistemi di arruolamento di una biennale, e quindi io penso che anche questa è una cosa buona. Non Madonna, so. Sì, tantissimo, tantissimo. Io non ho visto niente, non ho visto la sua faccia, passavo di là, con mia moglie andavo a caccia. Io l'ho visto da vicino, gli occhi erano due sputi, la faccia era gialla, una faccia d'assassino. L'ho visto accarezzare un cane, avevano lo stesso sguardo, cane e uomo morivano di fame. E allora voi chi è? E allora chi è? Scendeva di corsa le scale della metropolitana, in mano aveva del tonno, un salame e una banana. Poi sul più bello è spuntato anche un coltello, e un colpo di qua, e un colpo di là. Il cane gli stava sempre dietro, gli occhi e lo stesso sguardo. Sembravano Cristo con San Pietro quando erano in ritardo. E adesso dov'è? E adesso dov'è? Deve essere uno slavo che dorme e ruba alla stazione con quegli occhi senza luce e senz'altro un mascalzone. Chiamiamo un pulismano, ho appena visto l'assassino, dava fastidio a un bambino, lo teneva per la mano. Il cane, l'uomo e il bambino appena mangiato un po' di tonno si sono stretti vicino, vicino, vicino, vicino, vicino, vicino, e forse morivano dal sonno. Allora chi è? Allora chi è? Oh, ragioniere, dia me la borsa e vada via di corsa in fondo a quella via a chiamare la polizia. Non dobbiamo perdere tempo, c'è un bar qui vicino e si può telefonare. Ci facciamo anche un rapino. Arriva volando la volante con un furore sacro, confusa da tutta quella gente, non frena e fa un massacro. Alla fine della corsa il primo a cadere il ragioniere che rivoleva indietro la sua borsa. Poi fu la volta di un bagnino che ancora in mutande aveva sospeso i lavori in una piscina lì vicino. Falciati mentre guardavano i lavori in corso, due gemelli in pensione furono scaricati in un pronto soccorso. Un salutiero e un tabaccaio che da anni non si rivolgevano la parola approfittarono della confusione per spararsi alcuni colpi di pistola. Il padre vide la scena, si prese paura, dimenticò il sonno e la fame e prese per mano il bambino che disperato piangeva che non voleva lasciare lì il cane. Decisero in fretta di tornare a Barletta e corsero alla stazione, perché a Milano in agosto, oltre al gran caldo, c'è davvero tanta confusione. E allora chi è? È andata con questa biennale? No, no, ma non mi inviteranno mai la biennale, perché io ormai cioè, no, la biennale io credo che dovrà rimanere nel mio curriculum, una cosa che io ho sempre tentato di fare, ormai un'operazione, un'idea, è una cosa che però no, il giorno che mi inviteranno dirò loro, di no. Loro non sapranno, no, e poi, loro non sapranno, no, non dirò di no perché tutti si aspettano questa cosa che è quella più seria, no, io dirò di sì. Ma sarò io quello che farò, loro non lo sapranno mai, non sarà la cosa, che poi insomma comunque sì, no, rimarrò come Ettore Innocente, come tante altre artisti che avrebbero meritato di stare alla Biennale, non la faranno mai, però insomma, questa ultima Biennale io c'è non, stato io uscito, non penso, cioè io questo non lo penso, io penso che vedrò una Biennale con Pino Foresta prima ma o poi. Questo potranno decidere solo loro, io non che, riuscirò mai. Cos'è che diceva questo? Aspetta, ah. Beh, l'ultima biennale sul fatto è uscito durante l'articolo oltre, che parla della biennale, ci sta anche parla di questo fatto insomma che sono stato escluso sul Fatto Quotidiano, un articolo fatto da Claudia Colasanti. L'ho letto, perché guarda, la società vive sempre con un'arte che appartiene al passato. Prima o poi anche Pino Foresta. Ah, beh, certo, non è che sarò schiattato. No, secondo me no, ma postumo. Io però no, spero no, postumo. Però quelle del 94 prima o poi saranno ma passate. Ma già non mi sento tanto bene. No. Non so. No, però secondo me... No, io la faccio sapere questa cosa, io non sto tanto bene, quindi se mi dovete invitare fate presto perché non abbiamo molto tempo a disposizione. Ragazzi, Forse la Biennale vive ancora con l'arte appartenente al passato prossimo, ma passato, sei più avanti ancora. No, io certo le influenze del passato sono imperanti, non ho detto io appunto poi pur non avendo fatto l'accademia. È come se ogni artista debba essersi consolidato con un certo pubblico, no? Ma nel momento in cui un artista si consolida con un certo pubblico, forse è già passato prossimo. Sì. E se devi andare a pescare nel passato prossimo, Pino Foresta è sempre un pelino più avanti, anche se però dal 94 secondo me potrebbero attingere, cioè voglio dire nel tuo passato potrebbero già attingere. Ma io cioè, penso che ci sono progetti comunque quelli che ti ho parlato prima, esatto. Appunto, che sono ancora, cioè sono attuali, cioè, no sono attuali, non l'ha fatti nessuno, lo stesso adesivo che noi per il quale parliamo, questo adesivo del progetto CUS, cerca usa la smorfia. Sono l'unico che in 30 anni, nonostante abbiano provato in tantissime maniere di riprodurre la faccia mia, no, la faccia mia, la faccia loro, questa idea di questa faccia messa in giro, insomma, che richiama al libro 1984, magari che richiama piuttosto che... L'idea dell'adesivo interattivo, dove tu sotto puoi interagire e scrivere quello che vuoi, perché sull'adesivo c'è proprio intorno scritto, non so se te l'ho mai fatto. Ecco, sì, qui, no, quello che puoi scrivere. Qui io dico intorno alla faccia, qui su uno di questi, diciamo su uno di questi tipi, scritto: contribuite a contaminare la città con una vostra opinione sul fenomeno pubblicità, oppure scrivete ciò che volete. E sotto ci sono queste 1, 2, 3, 4, 5 righe. Vabbè, questa è. 5 righe nel quale tu puoi scrivere quello che vuoi. Questa cosa qui, dell'idea dell'adesivo interattivo, nessuno ancora l'ha fatta, nessuno ci ha ancora pensato. Cioè pure i grandissimi che sono pompatissimi, tipo Hobby, Giante, di qua, di là, c'è qualche cosa di simile, è stato fatto da artisti diciamo più strutturati, artisti concettuali, però hanno fatto delle cose diverse. E questa idea qui non è stata copiata, perché cioè, poi io non è che pensavo di andare in giro a recuperarli dove c'è stata un'interazione, però è capitato. Però almeno di fotografarli. No, è capitato che li ho recuperati, perché poi ricapita un certo. Poi che cosa succede? Si sparina dietro l'adesivo. E praticamente dove capita che io recupero l'artistico dove ci stanno scritte le cose, e qui forse te l'ho messo anche qualcuno messo. Questa qui è un'altra idea, secondo me, che. Questa qui penso che è un'idea di un'evoluzione dell'adesivo semplice che mette lì, solamente ci vuole propagandare, dice ecco io esisto, ci sono, di qua, di là, faccio un passettino in più, no? verso il pubblico, non voglio solo farmi vedere, voglio sapere cosa pensi. Ok, grazie. Che per me è perfetto. Grazie. Grazie. Coxo spaziale. E ringraziamo Cristiana Cobianco e ringraziamo Pino Foresta e... Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. When you're stuck like glue, Vaseline, when you're black and blue, Vaseline. If you'd like to woo.